rimbalzi umorali e tempeste ormonali, e tu vuoi star lontano da me. In questi giorni del mese io perdo molto fluido, poiché mi ci vorrebbe un tampone. Hai tu un tampone giusto per me. Scopriamo insieme con il ciclo mestruale, è bello scopare con il ciclo mestruale. Scopriamo insieme con il ciclo mestruale, scopriamo con il ciclo mestruale. In certi giorni d'estate, con tutto quel caldo che c'è, mi sento un frutto maturo, vorrei che tu bevessi da me. In questi giorni d'estate sono piena di succo per te, mi sento come un pompelmo, sei tu lo spremi agrumi per me. Scopriamo insieme con il ciclo mestruale, è bello scopare con il ciclo mestruale. Scopriamo insieme con il ciclo mestruale, scopriamo con il ciclo mestruale. Riscopro l'artista che è me, coloro mutande di rosso, del rosso più vivo che c'è. Mi servirebbe un pittore, quel bel color vermiglio che è me, lo intingerei volentieri, hai tu il pennello giusto per me. Scopriamo insieme con il ciclo mestruale,